un altro dei fili rossi che ci aiutano a leggere il mistero pasquale di Gesù, cioè la sua passione, morte e risurrezione, e i Vangeli che ne parlano, a mio parere, è quello delle parole di rassicurazione. Questo modo di dire, io l'ho appreso dal famoso libro I Cinque Linguaggi dell'Amore. Secondo quell'autore americano, le parole di rassicurazione sono un linguaggio d'amore. Poi io penso che i linguaggi d'amore siano molti di più di cinque, forse lui stesso lo diceva tra le righe. Sono veramente tanti, ecco. E è interessante conoscerne tanti per esprimere l'amore, ed è soprattutto importante conoscere il proprio linguaggio d'amore o i propri linguaggi d'amore. Soprattutto, ecco, quel libro parlava della vita coniugale, quindi era importante, lui come esperto che aiutava le coppie di sposi, che a sapersi esprimere l'amore con il linguaggio che è principale per ciascuno, che ciascuno si aspetta in modo principale. Ecco, vabbè, comunque io da lì ho preso questa, cioè ho imparato questo modo di dire, legato al linguaggio dell'amore, le parole di rassicurazione. Mi pare di ricordare, poi magari adesso mi confondo, e comunque sono passati alcuni anni. Ma mi piace dire che mi piace vedere nelle parole di Gesù questo linguaggio, le parole di rassicurazione. Non abbiate paura, no? Non abbiate, sono veramente io, quando si fa vedere risorto dai discepoli. Possiamo anche dire gesti di rassicurazione, no? Quando mangia il pesce arrostito, quando fa vedere le sue piaghe, quando tu Gesù ci fai vedere qui nel cenacolo le tue piaghe, quando dici a Tommaso e anche agli altri: mettete le vostre dita nelle mie piaghe, toccatemi, e guardatemi, toccatemi, sono veramente io, non sono un fantasma, no? Sono veramente io, sono veramente risorto, sono di nuovo vivo, anche se ho una vita che non muore più, quindi sono, ecco, con delle caratteristiche diverse, che sono la primizia della nostra resurrezione, per cui noi possiamo sognare la risurrezione del nostro corpo guardando il corpo di Gesù risorto, toccando il corpo di Gesù risorto, mettendo le nostre dita nelle sue piaghe, mettendo le nostre labbra sulle sue piaghe, cioè baciandole come per esempio San José María ci suggerisce di fare nel suo libro sul Santo Rosario, o trovando rifugio nelle sue piaghe, come anche in qualche punto di cammino dice, no? Trovare rifugio nelle sue piaghe, che sono come, prendendo dalla Sacra Scrittura, mi pare dal Cantico dei Cantici, quelle fenditure della roccia dove si nasconde la colomba. Allora, dopo aver scritto il discepolo amato, il discepolo che Gesù amava, quelle parole che abbiamo letto nelle meditazioni precedenti, e io potrei dire capitolo 14, ma questo è un'aggiunta successiva, no? L'Evangelista non, non aveva diviso in capitoli, è giunta di qualche secolo dopo. Però capitolo 14 comincia così: non sia turbato il vostro cuore. Certo, gli ha parlato di un tradimento, gli ha parlato di un rinnegamento. Il cuore si turba, per quanto gli abbia anche detto in questo sono glorificato dal Padre in questa prova, in questo momento, e anche gli ha dato il testamento spirituale, il comandamento nuovo dell'amore. Però tutto questo turba il cuore dei suoi discepoli, quindi lui ci dice: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Questo è un brano, è un momento dell'ultima cena in cui avvengono due dialoghi bellissimi, importantissimi, di rivelazione, no? Con due dei suoi discepoli. Però intanto noi ci soffermiamo su questo, no? Che Gesù ci chiede di avere fede in Lui. E noi come rispondiamo nella nostra azione? Ci chiede che non sia turbato il nostro cuore, rispondiamo: Signore, dona tu a noi la pace, dona tu a noi. È appunto di non essere turbati, no? Di fronte a così alle difficoltà del seguirti da vicino, alle difficoltà della vita. Allora, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Allora noi rispondiamo: credo, credo. Nella messa, perlomeno nel rito romano, nel rito ambrosiano il credo è più avanti nell'offertorio come un'offerta della nostra fede, no? Ma invece nel rito romano è la risposta alla parola di Dio, no? Cioè il Signore ci propone a credere ciò che ci rivela e noi rispondiamo con il credo. Rispondiamo con il credo. Credo, Signore, gli diciamo nella nostra preghiera, ma aumenta la nostra fede, come gli diceva quel papà del Vangelo, no? Credo, no, gli aumenta la nostra fede, glielo dicevano gli apostoli, ma il papà del figlio che doveva essere guarito da Gesù, gli diceva: credo, ma aiuta la mia incredulità. Quindi in effetti noi ci possiamo identificare con questi personaggi del Vangelo che hanno e ci aiuta, che hanno questo guazzabuglio nel cuore, potremmo dire, che credo ma aiuta la mia incredulità, no? Ma è che la nostra vita è così, spesso e volentieri, o per qualcuno di noi. Non è così lineare, limpida come un trattato. Credo, ma aiuta la mia incredulità, cioè la mia fede può crescere sempre ed è una realtà. Tu me la doni. La fede è veramente un dono di Dio. Ci è stata regalata nel battesimo, ci è stata regalata nella Chiesa, ci è stata regalata dai nostri genitori, col fatto stesso che ci hanno battezzato da bambini, penso quasi tutti noi o tutti. Allora, è un regalo la fede, no? È un dono. Allora, è un dono che noi dobbiamo saper far fruttare e usare, no? Usare il regalo. ma anche che può crescere. E quindi noi allo stesso Dio che ci ha dato questo dono della fede chiediamo aumentaci la fede. Aumentami la fede, donami una fede grande, no? Che appunto che non vacilli di fronte a così, alle prove della vita, agli scandali, non so, al cattivo esempio dei cristiani o al cattivo esempio che io do a me stesso, cioè il fatto che ecco, non sono contento di me. E credo che nella casa del padre tuo e padre nostro ci sono molte dimore, molte case. Questo verbo, il vocabolo della dimora della casa è molto importante in tutto il Vangelo del discepolo amato. Comincia con una casa, no, perlomeno comincia col prologo in cui dice che il Verbo è venuto ad abitare in mezzo a noi, a mettere la sua tenda. Poi, però, il primo incontro del discepolo amato, perché uno dei due non viene nominato, quindi sembra proprio che sia lui. L'altro è Andrea che chiama Pietro, a un certo punto compare Giacomo, e chi è che l'ha portato? È il fratello Giovanni, che però si tiene nascosto. E c'erano due discepoli. E gli chiedono, maestro, dove dimori? E hanno fatto bene a cambiare, una volta leggevamo nella traduzione dove abiti, ma hanno fatto bene a cambiare dove dimori perché è proprio il verbo greco meno che poi che diventa in latino, ecco. Mano, è manere, rimanere o dimorare, no? E allora, dove dimori? Qual è il luogo dove tu stai, dove abiti, dove puoi riposare, dove ci sono i tuoi affetti, la tua casa? E allora Gesù li porta dove in quel momento abitava e rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio, rimasero con lui tutto quel giorno. Quindi l'avventura del discepolo che Gesù amava con Gesù comincia, sì, comincia con la segnalazione di Giovanni il Battista, che era l'amico di Gesù, che dice, ecco l'agnello di Dio. Allora loro lo seguono. Quindi comincia con la segnalazione di un amico dell'amico. È quello che anche noi cerchiamo di fare, noi vogliamo essere, ci sentiamo, insomma, tu Gesù ci chiami amici, quindi desideriamo essere amici dei nostri amici e dire lì c'è Gesù. Però comincia con una casa e poi ci sono altre case, no? Che lungo questa storia, la casa di Lazzaro, di Maria e di Marta, e adesso questa casa, il cenacolo. E Gesù dice, ci sono molte case nella casa del Padre mio. E noi in questo momento di comunione dei santi, pensiamo alle persone care che stanno in questa casa del Padre, in queste molte dimore, tutti coloro che ci hanno preceduto nella vita della Chiesa, i parenti, no? Papà, mamma, nonni, e qualcuna al marito, qualcuna, e amici. Questa mattina una di voi mi ha fatto pregare per due persone defunte da poco, no? E noi chiediamo l'aiuto dei nostri fratelli nella fede che sono in queste dimore. Sappiamo che abbiamo comunione dei santi sia con le anime del purgatorio che con le anime del cielo, che con i santi del cielo. con tutti i santi del cielo, che sono una moltitudine, non sono solo quelli che sono stati canonizzati dalla Chiesa, sono infinitamente di più e molti anche così anonimi che hanno vissuto una vita ordinaria. Quello che è una parte essenziale del messaggio che Gesù ha voluto affidare a San José María, quindi all'Opus Dei, da dire ricordiamoci noi stessi e ricordiamo agli altri e ricordiamo nella Chiesa che ecco questa cosa, questa verità che il Concilio Vaticano II ha proclamato, che la vocazione alla santità è universale, universale nella storia e universale nella geografia, cioè ogni persona di ogni condizione, uomo, donna, giudeo, greco, tutti sono chiamati a entrare in Cristo, a partecipare della vita di Dio, ad essere figli di Dio, a vivere questa vita d'amore, il comandamento nuovo. Questa è la santità, dobbiamo saperla anche spiegare perché questo vocabolo può essere molto non conosciuto o non compreso o malinteso. Quindi la santità è la pienezza della vita in Cristo, quindi non obbedisce a stereotipi la santità, no? Il Papa Francesco ha scritto una bella lettera su questo, no? Gaudete et exultate sulla chiamata della santità di tutti nel mondo contemporaneo, mettendo in evidenza alcuni punti, quelli che lui ha a cuore in questo momento, Per esempio, mi ha colpito che in quella lettera, fra le tante cose, parla delle beatitudini, l'avrete letta, ma comunque mi ricordo che mette in evidenza lì la negatività della maldicenza, no? Della mormorazione. Per esempio, no? Quindi la santità è lottare contro questa tentazione, quindi andare invece a vivere, per esempio, l'indicazione, il suggerimento, il consiglio evangelico della correzione fraterna, no? Che Gesù dice: se tuo fratello pecca contro di te, vai e fra te e lui solo, e correggilo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. In fondo è semplice, però è difficile. È difficile. Come si fa? Forse si prega molto, si può pregare molto per questo e poi aiutati dallo Spirito Santo si va. Poi ci sono molti modi di farlo, quindi anche dire, non so, guarda, a me è sembrato questo, oppure mi ha fatto queste impressioni, non so tu che cosa, qual era la tua intenzione, no? Però può diventare anche un dialogo molto bello, Anche uno può premettere, se io mi sbaglio, tu verrai da me a dirlo, anzi, mi raccomando, non è che mi voglio mettere su un piedistallo come fare il maestro della vita cristiana per te. Ti voglio dare, però, ecco, ti parlo, fra te e lui solo, no? Questo probabilmente, ma lo dico per me, innanzitutto. È un antidoto che poi, se io sono andato da mio fratello a dirgli: secondo me stai sbagliando a fare questo, prego per te, ti incoraggio, poi sarà più quasi non verrà la tentazione di parlarne con altri, no? Perché ne ho già parlato con lui. Quindi ci sono molte dimore, c'è un sacco di gente che è arrivata attraverso purificazioni, attraverso il chiedere perdono a Dio, attraverso l'aiuto della creazione eterna, attraverso tante cose, ma attraverso ecco, il cammino che il Signore ci ha dato. In queste dimore noi preghiamo per loro, no? Per le anime del purgatorio che sono nell'amore di Dio, ma sono in un cammino di purificazione. E poi preghiamo per quelli che stanno in cielo perché desideriamo arrivare da loro e anche perché ci aiutino in questo, invece noi che siamo sulla via, no? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo, vi prenderò con me. Ecco, quella è la. Si può intendere sia quando Gesù risorge e poi ci dona la vita con lui, quindi noi siamo con lui già adesso, no? È come se fossimo in cielo attraverso la vita della grazia, questo è stare con lui già adesso e poi può essere il significato della chiamata della morte, no? La chiamata vi prenderò con me perché dove sono io siete anche voi. Ed è il luogo dove io vado e noi chiediamo al Signore che ci prepari una buona morte, chiediamo a Giuseppe, patrono della buona morte, no? Chiediamo a Maria tutte le volte che recitiamo l'Ave Maria, adesso e nell'ora della nostra morte, no? Prega per noi. E Gesù dice del luogo dove io vado conoscete la via, è come se fosse forse un po' volutamente provocatorio, e infatti Tommaso, aveva questa reazione esplosiva, immediata, no? Come quando dice date voi loro da mangiare, ma non bastano 200 denari. Gli disse a Tommaso, Signore, noi non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? È bellissima questa schiettezza che hanno gli apostoli con Gesù, è bello che l'abbiamo anche noi così nella nostra orazione. Ce l'aveva Santa Teresa di Gesù, per esempio, che si lamentava con il Signore e lui gli diceva così io tratto i miei amici e lei gli risponde è per questo che ne hai così pochi. Quindi conosciamo i santi amici di Dio che hanno una schiettezza di rapporto con il Signore, ma noi l'abbiamo imparato già dagli Apostoli. Gli disse Gesù, grazie a questa domanda Tommaso, meno male che hai fatto questa domanda, no? È bello che nel Vangelo le cose vengano fuori anche grazie al fatto che gli Apostoli non sanno, e il fatto che non capiscono, che domandano in modo impertinente, in modo fuori luogo e domandano, oppure domandano perché veramente nessuno capisce e uno ha il coraggio di domandare. Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Quindi continua la provocazione di Gesù dicendo delle cose importantissime, che poi si vede che, ecco, che provocano altre domande dai discepoli. Noi però ci soffermiamo un attimo su questo. Gesù, tu sei la via, tu sei la verità, tu sei la vita. Come dire, papi, santi, autori spirituali, predicatori, ma anche semplici cristiani hanno detto, perlomeno negli ultimi decenni, e Gesù, il cristianesimo non è una dottrina ma è una persona, no? E la verità è Cristo, ed è molto di più di una dottrina. In qualche modo la dottrina è giusto che ci sia, perché in qualche modo abbiamo bisogno di sistematizzare i suoi insegnamenti e anche gli insegnamenti della Chiesa. Però non si esaurisce lì, se no sarebbe un'idea, un sistema di pensiero, una filosofia o un'ideologia. Invece il cristianesimo sei tu, Gesù, cioè tu sei la verità. E tu sei anche la via e tu sei anche la vita. Quando tu ti doni a noi ogni giorno nell'Eucaristia, o tutte le volte che possiamo, tu ci doni la vita, tu sei il pane della vita, eh? Così come il pane ci dà la vita corporale, no? Senza carboidrati, mi diceva il dietologo, si muore in 4 giorni, non so se è vero, ma lui lo diceva, mi ha colpito molto, no? Era un uomo, è un uomo molto didattico, no? E mi domandava, e cosa fa quindi questo cibo che lei prende? E io non sapevo rispondere. Le dà la vita. Infatti è vero. Cioè, il pane dà la vita, no? Però Gesù lo dice in termini, cioè prendendo una verità corporale, no, terrena, e Gesù ci dice che lui è la vita soprannaturale, ci dà la vita divina, c'è la vita dell'anima, ci alimenta la vita dell'anima. Per cui certo, quando uno ha delle problematiche di vita cristiana, delle problematiche di vita di fede, delle problematiche di vita spirituale, a volte si potrebbe dire, potrebbe sembrare minimalistico o semplificante eccessivamente, ma in realtà non lo è. Vai all'Eucaristia, no? Vai a prendere il pane della vita, vai anche alla confessione, vai a prendere. Mi ricordo che a Verona il Papa Giovanni Paolo II, nell'arena, quando venne, mi pare che era il 1988, con i giovani, l'arena lasciò da parte il discorso come faceva spesso, e poi raccontava questo della sua esperienza pastorale, no? Che anche quando parlava con intellettuali, scienziati che avevano problemi di fede, lui li incoraggiava ad andare all'Eucaristia e anche alla confessione. Questa è un'esperienza anche di San José Maria, no? Che raccontava, no? Che aveva avuto diverse volte l'esperienza di, dopo tante discussioni di tipo teorico, lui offriva la confessione a una persona che aveva problemi di fede, e a volte quella persona si rialzava dalla confessione, dallo stare in ginocchio a chiedere il perdono, con la fede. È un dono di Dio, la grazia è un dono di Dio. Gesù, tu sei la vita, tu ci dai la vita, tu sei la verità che noi abbracciamo, e tu sei anche la via, il cammino, cioè la via sei tu, eh? Che cosa significano queste parole? Sono misteriosissime, non è che si possono spiegare del tutto, però ce le possiamo ricordare, le possiamo dire a noi stessi, le possiamo ripetere come già Platoia: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi tu portaci al Padre. E poi se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. E a questo punto mi sono prima confuso, ho detto Filippo, era Tommaso, che dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere? Filippo viene dopo, è l'altro, no? Che ha un'altra reazione molto importante, a cui Gesù risponde con parole altrettanto importanti, perché però vedremo in un altro momento. Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? E noi ti rispondiamo già, Gesù, lo crediamo. Quindi il Padre ha il tuo volto e tu hai il volto del Padre. E quindi se noi conosciamo te, conosciamo il Padre. È vero, siete due persone distinte, tu sei eternamente generato, il Padre eternamente ti genera e tu poi sei anche nato nella storia attraverso Maria Santissima, quindi hai preso la nostra natura umana, quindi però ce l'hai ancora con te questa natura umana, sei uomo nel seno del Padre, sei uomo nel cuore della Trinità eppure io vedo te e vedo il Padre. Com'è bello questo Dio Padre, no? Com'è forte questo Dio Padre, com'è dolce, com'è vicino, com'è tenero, com'è umano, com'è comprensivo, com'è Padre. E Maria,